Cari amiche e cari amici, buonasera, martedì. Questa sera è particolarmente emozionata perché parla di un tema che riguarda un po' tutti, ma in particolare le donne. E questa sera ho il piacere di incontrare Beatrice Di Roberto, la quale ha scritto un saggio, lo chiamerei breve, sulla sua storia personale, dal titolo Una donna, una storia, sopravvivere al cancro. Quindi vi renderete conto che l'argomento di cui parliamo questa sera è un argomento che soprattutto alla vigilia di Natale assume un particolare significato. Beatrice, noi ti ringraziamo per essere qui con noi questa sera e sarei curiosa di sapere perché e per chi hai scritto questo libro. Bene, perché giustamente penso prima che la mia esperienza potrebbe giustamente aiutare qualche persona, soprattutto che stanno magari vivendo questa malattia, perché dico effettivamente quando uno si ammala di cancro, io sempre ho pensato che bisogna chiamare il gatto gatto, inutile di andare sotto le parole brutto male o diciamo malati incurabile o malattie incurabili, tutte queste cose. No, il cancro è oggi come oggi la chiamo l'influenza del XXI secolo, dunque una malattia come qualunque nel quale veramente oggi come oggi, dico quando dico qualunque, si può guarire giustamente. Per quello io ho voluto scrivere questa esperienza mia, perché prima mi ha incoraggiata e mi ha un po' diciamo esorcizzato il mio problema, anche che sia psicologico soprattutto, più che fisico, una volta che uno supera diciamo il trauma. E poi soprattutto per dare un aiuto agli altri, ripeto, che oggi ancora nella sofferenza soprattutto psicologica, che è la più grande, hanno bisogno di un messaggio positivo. Allora, io partirei quindi dalla sua esperienza, perché è un'esperienza molto singolare. Quando lei si è accorta, diciamo, delle prime avvisaglie, si trovava in Tunisia. Erano gli anni 70, erano sicuramente dei periodi in cui probabilmente alcune cose non si sapevano, oppure si sapevano poco e male. Eppure si affidò alle cure di un medico tunisino che poi ha costantemente visitato negli anni, il dottor Najib, se pronuncio correttamente il nome. Ci può raccontare la sua relazione con questo dottore? Perché mi sembra di aver capito, leggendo la sua storia, che ha svolto un ruolo abbastanza importante nella sua vita. Certamente quest'uomo lo chiamo veramente un mio angelo custode, mio salvatore, quello che possiamo, purtroppo oggi non c'è più, l'ho perso praticamente 10 anni fa. Comunque è stato proprio primordiale, perché prima mi ha dato veramente la cosa più importante tra paziente e medico, diciamo, la fiducia, anche la parola, diciamo, al momento giusto, quando uno ha veramente bisogno. Comunque negli anni 70, grazie a Dio, non ero malata di tumore maligno, ma lui mi aveva dato una visaglia molto seria, mi aveva annunciato che nell'epoca della menopausa avrebbe subito un tumore maligno. Dunque, certo, non è che ho vissuto per 30 anni con l'angoscia continua di questa malattia, ma comunque con una certa sorveglianza, anche e soprattutto fatto da lui, visto che andava praticamente ogni 6 mesi in Tunisia a farmi questi controlli. Dunque mi sentivo veramente appoggiato da una grande persona. E cosa ha significato per lei la malattia in questi anni? Perché nel suo libro traspare tanta energia, tanta forza, tanta voglia di vivere e in particolare proprio questo suo messaggio di speranza che si rivolge alla fine a tutti. Quindi volevo proprio avere un suo commento su questi anni, laddove ancora non era malata, ma aveva avuto già queste prime avvisaglie e che cosa provò quando invece purtroppo il cancro si manifestò così come predetto. Dunque, certo che quando uno si ritrova, come all'epoca, a 27-28 anni e con una previsione eventuale di 30 anni dopo di ritrovarsi veramente malata di cancro, mi sembrava una cosa impossibile. Ho detto veramente che cos'è la menopausa, una cosa, una signora, una certa età. E la prima cosa che mi ricordo che gli ho detto, ma chissà se ci arriverò a quell'età. Infatti mi sembrava così remoto nel tempo. E poi un bel giorno uno arriva anche a 58 anni e si ritrova veramente malata di cancro. Certo, è una specie di treno, un TGV che vi arriva addosso, nel quale uno deve veramente a questo punto o mangiare la minestra o saltare la finestra, più o meno. Nel suo libro si raccontano anche tante storie, non c'è soltanto la sua, c'è un bellissimo capitolo dedicato alle separazioni e agli incontri. In questi anni che cosa l'ha colpita però del mondo della medicina, degli ospedali, dei dottori che poi ha dovuto incontrare negli anni? C'è un'esperienza magari veramente positiva e una invece meno positiva, laddove ci sono più ombre che luci? Certo, adesso quando, grazie a Dio, ho trovato un appoggio straordinario, questo dico sempre, che Dio mi ha mandato questo grande regalo, anche la Vergine Maria, io ho una grande fede religiosa che veramente, devo dire, fino ad oggi mi sostiene terribilmente. E devo dire che ho trovato immediatamente questa entrata in questo campus biomedico che è l'ospedale a Roma, diciamo, di Trigoria, con quale adesso giustamente ho fatto il devoluto del mio libro a loro per la ricerca appunto in senologia. Comunque devo dire che lì ho trovato veramente un appoggio straordinario, una gentilezza, tutto quello che veramente un malato ha bisogno. Certo che io, lavorando anche in campo oncologico come volontario in un altro ospedale romano, lì devo dire effettivamente l'atteggiamento dei medici confronto ai malati di cancro non è così facile e non è così generosa il loro confronto, non c'è confronto l'empatia che uno dovrebbe avere per il proprio malato. Cosa ci racconta invece della sua famiglia? Qual è stato il ruolo? Penso che sia stato un ruolo molto importante, molto spesso citato tra le righe anche suo marito. Certo che la persona la più colpita è la persona che vive accanto a lei, voglio dire, in questo caso è mio marito. Mio marito certamente, andando in pensione, ha trovato questo bellissimo regalo di una donna malata di cancro, che è la cosa veramente che avrei non voluto dargli come regalo di fine carriera. Comunque effettivamente devo dire che lui, anche se lui silenzioso come il piccolo gatto sempre accanto a te, è stata straordinaria, perché veramente, infatti il libro è dedicato a lui, perché lui mi è stato di una grande presenza, anche tacita, non taciturna, non so come si dice, voglio dire, certamente non mi poteva rispondere alle mie domande, perché non poteva, lui era più spaventato di me, infatti ero io che gli dovevo dare coraggio più che lui a me, ma solamente il fatto che lui era presente era straordinaria. In questo suo viaggio, in questo suo percorso, come sente di essere cambiata e che cosa si sentirebbe di dire a coloro i quali in questo momento affrontano un momento difficile legato alla malattia? Quello che io direi adesso, come diceva il nostro carissimo Papa Giovanni Paolo II, non avete paura, perché oggi le cose si possono risolvere, si possono guarire. Certo che la cosa importantissima per tutti noi e per anche le persone più sane del mondo è la prevenzione, quello che io batto e ribatto sempre: non aspettate di andare dal medico quando vi sentite male, andate quando vi sentite bene. Beatrice, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi questa sera. Tra l'altro parli un italiano eccellente. Beatrice infatti è di origine belgo-svedese e ha preso l'italiano un po' studiandolo, un po' anche dal marito. C'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti aggiungere al termine di questa intervista? Bene, sapendo che siamo alla vigilia di Natale, io a tutti i miei compagni di squadra, di viaggio, voglio dire, li voglio soltanto augurare un bellissimo messaggio di regalo, di speranza e di amore. E non avete paura, ricordatevi che è una cosa che può succedere a tutti noi, ma prendetela positivamente e vedrete che quando uno è positivo il sistema immunitario si rinforza e anche le nostre cellule maligne a volte diminuiscono terribilmente in questo senso. Buon Natale. Beatrice, con questo bellissimo messaggio di speranza noi ti ringraziamo, quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori Una donna, una storia, sopravvivere al cancro, edito da Alpes, potrete facilmente ritrovarlo su tutti i siti online di vendita di libri e ugualmente auguriamo a Beatrice e alla sua famiglia un sereno e felice Natale. Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato l'intervento di Beatrice, che io ho trovato commovente, ma non solo, perché Beatrice emana una forza, un'energia che sono assolutamente invidiabili e essenziali, perché per andare oltre, per affermare il proprio desiderio di vita, ed è questo anche il messaggio di questa sera, dobbiamo batterci e dobbiamo soprattutto affermare la nostra identità, affermare il nostro modo di essere, affermare noi stessi, perché soltanto riconoscendo e apprezzando la nostra identità fatta dai nostri talenti, non smetterò mai di raccontarlo e l'ho già più volte, l'ho detto a Bruxellando, ognuno di noi ha dei talenti che vale la pena di evidenziare, proprio questi talenti che caratterizzano la nostra unicità e che ci rendono particolarmente speciali. Invece poi, cambiando argomento, ma restando sempre in tema della nostra agenda culturale, il mese di dicembre è stato un mese particolarmente ricco, è stato un mese ricco di eventi a Bruxelles, tant'è che ci sono stati momenti in cui effettivamente avere il dono dell'ubiquità mi avrebbe sicuramente facilitato le cose. Invece poi la vita un'altra volta ci obbliga a scegliere, quindi ho scelto di scegliere di frequentare quasi quotidianamente il Festival del Cinema Mediterraneo, che vi ricordo si è svolto a Bruxelles tra il 5 e il 12 di dicembre. Come ricorderete, è stata proprio nostra ospite Aurélie Lossu, la quale è stata veramente carinissima e ci aveva raccontato già delle anteprime che si erano svolte proprio, o comunque delle anteprime che avrebbero caratterizzato il festival. E tra i vari ospiti, poiché l'Italia non era paese all'onore, ma quest'anno c'erano invece la Turchia e il Marocco, perché dal 2014 si festeggerà il 50° degli accordi bilaterali tra il Belgio con, per l'appunto, il Marocco e la Turchia, che questi due paesi quindi sono stati gli ospiti d'onore. Sono state tante proprio le puntate che o comunque i film, scusate, a volte penso sempre che tutto si possa svolgere in puntate, ma non è proprio sempre così. Ci sono stati quindi anche dei momenti in cui il cinema italiano è stato protagonista. Tra questi, un film che si è svolto in Italia, è stato girato in Italia, Acqua fuori dal ring, così come lo dice il titolo, però a girarlo invece un giovanissimo attore americano che, pensate, non parla l'italiano, o comunque lui dice di non parlarlo bene, però lo capisce perfettamente. E non solo, lui capisce molto bene il siciliano. Ora, probabilmente per tutta una serie di storie personali, comunque lui riesce a to master, come dicono gli inglesi, il siciliano passivamente, quindi insomma comunque gli facciamo i complimenti, perché sicuramente non è stata cosa semplice. Immigrazione e sud del mondo, storia antica, echi odierni, crisi e lotte per la vita. Joel Stangl si immerge nel neotessuto multietnico del nostro paese, adottando uno sguardo filtrato dal mito. Il paesaggio siciliano di Catania, due pugili, un italiano e l'altro africano, che lottano sul ring, dentro e fuori. L'amore è contrastato con le donne che appongono loro uno sguardo tutto femminile e pragmatico a ogni sogno covato. Il regista parte dall'antico, parte dallo storico Pulibio, che immaginava Cartagine e Roma come due pugili sul ring, adottando una scoperta metafora sull'incontro, scontro culturale, come un processo ancora terribilmente in divenire. Ecco l'originalità di questo film, che percorre per l'appunto due percorsi simili, paralleli, che senza mai incrociarsi disegnano destini e distinti e affini destini del vivere odierno. Toscano e Barca sono rappresentanti di quel sud che ancora sceglie, che non solo lotta sul ring, ma anche fuori perché vuole emergere. Ma l'acqua intorno a loro opera inesoribilmente per risucchiarli. Allora vi lascio a quello che è l'intervento che Joel Stangl ha rilasciato. Tra l'altro è stato molto gentile perché le domande sono in italiano e vedrete che veramente le ha capite tutte perfettamente, però lui risponderà in inglese. Quindi per quest'ultima puntata di Bruxellando abbiamo anche un po' di lingua di Albione che ci accompagna. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Bruxellando, a Radio Alma. Come accennato proprio in apertura di trasmissione, sono molto felice perché riesco finalmente ad avere un'intervista del Festival del Cinema Mediterraneo in svolgimento al Botanic, come sapete, dal 5 al 12 dicembre. E questa sera ho il piacere di incontrare Joel Stangl, il quale è l'autore del film Acqua al di fuori del ring. Joel, so che capisci molto bene l'italiano e quindi preferirei farti le domande in italiano e tu puoi rispondermi se sei d'accordo in inglese. Sì, d'accordo. Ok, allora io vorrei sapere qualcosa di te. Come nasce questa tua passione per il cinema? It's the obvious way, I think, to talk about our society these days, because it's a medium that transcends cultural borders, and that's the phenomena of our age, is the blurring of boundaries. You know, this is becoming a global world, a global community, and we need a medium of expression that has those same qualities, and that's cinema. Acqua fuori dal ring è il tuo secondo film, e non a caso il secondo film girato anche in Italia. Come mai l'Italia e in particolare la Sicilia? Well, you know, as a director, the most difficult thing is to find good actors. And as Orson Welles said, in Italy is full of actors. The worst ones are on the screen. And so I really do feel like you get, Italy is it's an amazing place, and it has a lot of potential. And the way I work is through locations, and in Sicily I found the type of striking contrast that I need in a lot of my work. You know, I don't only work in Sicily, but I find myself going back all the time because it's the locations, the history, the mythology. It's almost the beginning of storytelling for Europe, you know, in a lot of ways with Odysseus and things. And so I feel like those locations are still speaking. Bruxelles è la capitale dell'Europa, sai che qui ci sono tante nazionalità. Il fatto che Bruxellando sia italiano, in italiano, in questa città dimostra comunque che c'è una forma di integrazione. Prima di parlare direttamente del film, quale idea ti sei fatto durante il tuo periodo in Italia? Che cosa pensi rispetto proprio all'integrazione multiculturale e multietnica? Well, it depends in which parts of the society. You know, I'm raised in the United States, and in the neighborhoods I was raised in, there's a different sense of integration. And then in Italy, it's still a very, very clear divide between the cultures. And to me, that felt fake. That felt fabricated, because when you really look at the history, it's, you know, the Mediterranean has always been an exchange of culture and a place of integration. And so in this film, I decided to explore that, and I wanted to try to understand a little bit more about the differences of the societies, because that's what they focus on, but even more so the similarities between the different groups that are there. And I think it's something that Italy still really needs to talk about. It's something that Europe still really needs to talk about. And you know, it's not a matter of do we allow this or do we not. That will never happen. This is an integrated society, or a society that will have many cultures. And it's really about how do we start to be comfortable with that. And ti facevo questa domanda perché quello che ho trovato molto interessante è la metafora del ring. Il ring come incontro e scontro delle realtà culturali, che, oppure di queste diverse anime che iniziano a convivere in Italia. Perché sai, l'Italia è stato un grosso paese di migrazione, quindi siamo stati tanti ad essere migranti, mi includo anch'io, e da poco, recentemente, da qualche decennio, è anche paese di emigrazione. Trovavo bellissimo per l'appunto il pugilato come sport, come simbolo del film, perché ci fa capire proprio questo scontro. Però secondo te dove avviene l'incontro? Qual è il punto di unione tra queste diverse realtà? So the place where it comes together is in a lot of ways it's the heritage. I think people to find a lot of the common ground. You cannot just look at the very modern culture. So in our film, for instance, this is kind of the thing that I like to point out, is that the music in the film, many people think this is Arabic music when in fact it's Sicilian music. And it reflects that these cultures have been mixing for so long. And I think when we begin to understand that, then a lot of the phobias break down. So it's in the human aspects where the cultures come together. Is that? Mm-hmm. Mi è piaciuto particolarmente un aspetto. Lì veniamo alle similitudini in cui tu racconti le storie di due ragazzi, uno di origine credo maghrebina e l'altro invece siciliano, che non senza saperlo vivono lo stesso percorso, vivono lo stesso cammino. Tu ti sei ispirato a Polibio, allo scritto di Polibio, quindi ti sei ispirato alla guerra punica, e mi rifaccio un po' una domanda che ti è stata fatta proprio poc'anzi sul ruolo delle donne. In questo senso tu apporti delle novità e le donne giocano un ruolo molto importante nel tuo film. Puoi dirci qualcosa in più in merito a questo aspetto? Well, you know, so much of you know, the history and the people and so the people in this film are really trapped in cycles, and the society is trapped in a cycle, and the history is repeating itself, and women are not always a very central figures in the public and political life of these countries, of Italy or from the Arabic countries where the immigrants are coming from. They're much more masculine cultures, and so whenever you start to see a cycle, you have to start to look for those elements that are missing, because those are the things that are often things that break that cycle. And I feel like in this modern era and in these times, the role of women is of course strengthening. And I feel like there's a very different philosophy between the masculine and the feminine in general, and then reflected in this film. That's the men are looking for something and striving for a dream, whereas the women are taking what they have and creating something out of it. And I think that's a very beautiful difference, and I think it's very powerful to accept, to take a situation and to create change out of that. Rather than desiring something that is maybe sometimes unattainable. Veniamo invece agli attori. Non lo sapevo, ma mi ha fatto piacere scoprire che gli attori con i quali hai lavorato non sono attori professionisti. Come li hai incontrati? Come hai comunque potuto selezionarli? When I film, I walk a lot. I walk around the locations, the cities, to get a sense of places. And when you do that, you start to come across people. And I don't ever do real auditions where people have to act. And what I'm generally doing is I'm just asking questions. I just try to get to know somebody, because if their experiences are rich, then you have a foundation to get those experiences to translate onto screen, and you know, as a base for emotion, so you know it's there. Whereas with an actor who doesn't have these experiences, you have to try to get them to fabricate something. And I'm looking for authenticity, because these films are not about me. These films are about the people and the place, and so I value what they have to say and who they are very much. So it's really about, because they're the ones who drive the film, they drive the story, and that's where it gets its authenticity. And so, I was just, you know, on the street finding people who were doing something that, you know, was interesting or, had, you know, some hint of attraction that yeah made me have the courage to then talk to them, yeah. So yeah. E veniamo invece a un altro protagonista che c'è ma non si vede, però è sempre presente, il mare. Qual è in generale la tua relazione con il mare? Well, this can get very new agey about how water really does affect us as people, but when you spend time there, you realize in the different seasons that the sea has a very different feeling, you know. So my first film in Sicily I did was in the summer, and so it's this very bright and jovial piece about love and young kids and things, and it's and that's the summer. But in the winter, the sea is cold, and you start to be trapped, because in the winter you don't go out with your boat anymore, and you feel that. And whenever you start to feel trapped somewhere, that's when conflict begins. And this story, you know, we filmed in the winter, and so the sea is always there. Its influence is in everything. It's in the attitudes and the way people feel and how they're acting. And if I would have made this with the same people in summer, it would have even then been different, you know. Allora, ancora una curiosità sul tuo stile. Quando tu hai ripreso le differenti scene, mi è sembrato di vedere come se ci fossero più scatti, come se ci fossero più momenti messi insieme. Un po' come, sai, Manzoni diceva che lui quando scriveva si metteva in un angolo per poter osservare gli altri. Tu invece, quando sei con la tua macchina da presa, che cosa ti colpisce? Che cosa vedi? Qual è la prima cosa che ti attrae? Oh, that's difficult, but you know, the idea is to try to let the locations and the limitations of where you're filming give you the images. So we're a very small crew to be able to go into a lot of these locations, and so you have certain limitations, and it's those limitations that actually give the potential. And so when you're there with the camera, it's the locations that start to give you something. You know, if it's an animal in the corner, all of a sudden you maybe want that animal to be part of the frame, and so you back up a little bit, and now you have a little bit of this other building, and it's, you know, and this is really, it's the discovery while we're filming that creates the visual language as well, you know. And that's really the difference in the approach of this production, is that it's about discovery, and it's about always being open to change and to letting the atmosphere and the environment drive the story. Joel, che cosa bolle in pentola? Quali sono i tuoi progetti per il futuro? This depends on what the world will let me make. You know, I would really like to make a film about my grandfather in Germany, and I hope that I hope I'm able to find some support to be able to make that. Is there anything else that you would like to add? Something, a message maybe to convey to our audience? Watching cinema, because like I say, it really is the medium of our time, but there is good cinema and there is bad cinema, and we really need to continue cultural dialogue through this medium, so keep looking for cinema. Don't take what you're given, just keep looking yourself. Joel, noi ti ringraziamo di essere stato con Radio Alma e con Brussellando, e we wish you all the best and lots more. Thank you. Grazie. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, e ormai siamo in chiusura di trasmissione, ahimè, il tempo è tiranno, quindi lascia veramente il tempo che trova. Effettivamente è strano dirlo, ma il tempo scorre velocemente e ahimè siamo alla fine di questa puntata di Bruxellando di questa settimana. È il 24 dicembre, siamo in piena atmosfera natalizia, probabilmente tanti di voi ora saranno a cena, alcuni magari sono in macchina perché si apprestano a raggiungere gli amici e i familiari. Questo 2013 è stato un anno ricco, è stato un anno ricchissimo di eventi. Tanti sono stati i cambiamenti che sono avvenuti nel nostro paese e non solo, e continueranno probabilmente ad essercene, perché il cambiamento è inevitabile, fa parte del nostro presente e della nostra quotidianità. E con questa puntata Bruxellando vi augura veramente di trascorrere delle felici feste, delle serene feste, e ricordatevi che questi momenti sono importanti proprio perché probabilmente ci permettono di riflettere un momento, di ritrovarci e magari anche di riascoltarci all'interno di noi stessi. Colgo anche l'occasione di ringraziare tutti voi, di ringraziare voi ascoltatori che quest'anno ci avete premiato con una fedeltà veramente commovente, perché i nostri dati di ascolto sono straordinari e questo lo dobbiamo a voi, lo dobbiamo alla vostra presenza, alla vostra costanza e al vostro affetto che abbiamo probabilmente meritato nel tempo e negli anni. E allo stesso tempo il mio saluto va a tutti i nostri ospiti di Bruxellando, a tutte le persone che annualmente ci accompagnano e ci regalano emozioni, ora scritte, ora sonore, ora visive. Un ringraziamento va soprattutto a voi, perché come dico spesso, ormai il mio mestiere è quello di leggere, quindi è di leggervi cercando di cogliere le emozioni, di cogliere i sentimenti, di cogliere anche quelle che sono poi le caratteristiche di questo nostro tempo. Giorgi diceva la settimana scorsa che vorrebbe ritornare alla musica medievale, dove c'erano le pause, i silenzi, dove erano previste le pause per i cantori affinché potessero respirare. E quindi questo è il mio auspicio. Io mi auguro che il 2014 sia un anno di scoperta, sia un anno di riscoperta, sia un anno in cui riusciamo a fermarci magari a un momento e non essere trasportati da questo flusso di cose, di eventi che sembrano circondarci. E invito tutti coloro i quali scrivono, dipingono, compongono, di scriverci, perché troveremo comunque un posto per tutti voi. Quindi martedì, a nome di Bruxellando, a nome di Dani M, a nome di Georges Laurent e a nome di Fiordaliso, vi augura di cuore un felice 2014 e ci ritroviamo martedì 14 gennaio. A presto!